L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Il grande tema dell'immigrazione è purtroppo spesso ridotto al litigio di bottega della nostra politica italiana. E poi la storia di due donne, la giornalista mezza iraniana e mezza americana Roxana Saberi e il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, la donna che da anni si batte per la libertà e la democrazia in Birmania. E poi altro ancora in questa affollatissima lunga settimana di notizie, cominciata sabato scorso 9 maggio, che si è conclusa ieri venerdì 15 maggio. Cominciamo dunque il nostro racconto, come sempre attraverso i servizi e le voci già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. È la grande narrazione della settimana, narrazione politica ma anche sociale e, se volete, persino psicologica. In parte si è svolta nel mare tra la Libia e l'Italia, in parte sui banchi del Parlamento, in una settimana infuocata dalla discussione sul disegno di legge sulla sicurezza, e in parte ci sono stati anche dei rimbalzi fino a Bruxelles, fino all'Europarlamento e all'ONU. Sto parlando naturalmente del tema dell'immigrazione e degli immigrati, che di questi tempi poi viaggia a braccetto, e non sempre questo è un fatto positivo, con altre tematiche, come per esempio i concetti di sicurezza e insicurezza reale o percepita, la crisi economica e le elezioni europee che incombono e che spesso spingono alcune scelte, alcune iniziative o alcuni slogan di diversi partiti politici. Una settimana fa eravamo qui a ragionare attorno al respingimento di un barcone di migrati verso la Libia. Per Maroni fu l'inizio di una nuova epoca, di una nuova era, mentre anche l'opposizione diceva che era l'inizio di un nuovo corso, ma terribile, che addirittura rievocava le leggi razziali, così ha detto Franceschini una settimana fa. Ma la questione, naturalmente complessissima, prosegue giorno per giorno, va avanti per tutta questa settimana. E allora cominciamo dal quadro della situazione, dal punto di vista del governo, di sabato scorso con Paolo Piacenza. Sui respingimenti degli immigrati, governo e maggioranza fanno quadrato e a sostegno del ministro dell'interno Maroni si leva alla fine anche la voce del Presidente del Consiglio. Berlusconi risponde a un giornalista in conferenza stampa e spiega che l'esecutivo sull'immigrazione ha una posizione chiara. L'idea della sinistra era ed è quella di un'Italia multietnica. La nostra idea non è così. Poi aggiunge che i respingimenti sono legittimi. Non c'è nulla che violi accordi internazionali e nulla che violi anche le norme di umanità che abbiamo ben presenti. Nel pomeriggio, dall'Aquila, Maroni aveva ribadito l'avanti tutta sull'offensiva delle motovedette. Secondo il titolare del Viminale, infatti, la nuova strategia è efficace, permette di risparmiare molti soldi e condivisa dagli italiani. Altre voci del governo si levano a sostegno di questa linea. Frattini parla di strategia europea, Calderoli si dice degli strepiti dell'ONU. Alfano sottolinea che bisogna far comprendere che le nostre frontiere non sono una groviera. La Russa definisce contro la legge chi avversa i respingimenti. E anche il vice capogruppo alla Camera, Italo Bocchino, considerato vicino a Gianfranco Fini, plaude alla politica del Viminale. Quelle che abbiamo appena riascoltato sono le voci della maggioranza, che è impegnata, come peraltro anche l'opposizione, nella campagna elettorale per le europee, e quindi tutti gli analisti politici in questi giorni sono stati d'accordo nell'affermare che Berlusconi non può e non vuole lasciare alla Lega lo scettro, diciamo così, della battaglia sulla sicurezza e contro l'immigrazione clandestina, che secondo i sondaggisti poi dovrebbe portare molti voti. Però al di là delle voci che abbiamo sentito della maggioranza, ci sono anche quelle critiche che arrivano da più parti. C'è l'opposizione naturalmente che si schiera contro le scelte del governo e della maggioranza, poi c'è l'Unione Europea, che però in questi giorni direi spicca soprattutto per l'indifferenza e i silenzi piuttosto che per le prese di posizione dure sul tema, poi c'è l'ONU che dice la sua contro il governo italiano, e c'è anche la CEI che parla di un'Italia multietnica ormai come di una realtà compiuta ed un valore da mantenere. E poi ci sono le scelte che spesso sono isolate all'interno della maggioranza, spesso in dissonanza con il premier Berlusconi, di Gianfranco Fini. Sentiamo la cronaca di lunedì con Elisabetta Fiorito. Un nuovo distinguo, questa volta sulle politiche di immigrazione. Il presidente della Camera Gianfranco Fini contesta i respingimenti, ma anche le affermazioni del premier Silvio Berlusconi contrarie ad un'Italia multietnica. Il diritto internazionale prevede il respingimento, prevede ovviamente e giustamente che venga verificata la sussistenza dei requisiti per chiedere l'asilo prima di riaccompagnare al paese da cui si proviene. Ma per il capogruppo PDL alla Camera Fabrizio Cicchitto quella di Fini non è una critica. Sappiamo benissimo anche noi che vanno distinte le richieste di diritto d'asilo dai barconi che si presentano e cercano di promuovere l'immigrazione clandestina. E sull'immigrazione clandestina e sul contrasto all'immigrazione clandestina la maggioranza è tutta d'accordo, è d'accordo anche Fini. Attacca il segretario PD Dario Franceschini. È inaccettabile, insopportabile vedere dei barconi pieni di disperati trasformati in spot o manifesti di campagna elettorale per raccogliere qualche voto. Intanto arriva un duro monito all'Italia da parte del Consiglio d'Europa, l'Organizzazione Internazionale per i Diritti Umani, che non va confusa con gli organi ufficiali dell'Unione. Il respingimento è un'iniziativa molto triste, risponde il ministro degli Esteri Franco Frattini. Siamo vincolati all'Unione Europea. I toni in questa settimana sono spesso da rissa e rimangono altissimi per tutta la settimana. Accompagnano Berlusconi in Egitto e dilagano addirittura in Parlamento, dove si vota il disegno di legge sulla sicurezza. Giovedì arriva il voto finale al provvedimento che tanto divide maggioranza e opposizione. Paolo Piacenza ci descrive i punti chiave del pacchetto per quel che riguarda soprattutto la tematica degli stranieri. La chiave di volta è il reato di immigrazione clandestina, che potrebbe, secondo alcuni esperti, produrre gli stessi risultati delle contestate poi cancellate disposizioni sui medici e presidi spia. Ma nel DDL sicurezza sono diversi gli articoli che riguardano gli stranieri. La clandestinità non comporta il carcere, solo un'ammenda tra i 5 e i 10.000 euro, ma renderà possibile la denuncia, anzi, sostengono i giuristi, la renderà obbligatoria per i pubblici ufficiali. Poi c'è la disposizione che obbliga gli immigrati a esibire il permesso di soggiorno nei rapporti con la pubblica amministrazione, tranne l'iscrizione a scuola, ma compresa la registrazione all'anagrafe dei neonati. Secondo i critici c'è il rischio che gli irregolari scelgano di non riconoscere i figli, che diventerebbero così adottabili. Il governo ha smentito ricordando che esiste il permesso di soggiorno per gravidanza, ma restano diversi dubbi. Altre disposizioni prevedono il carcere fino a 3 anni per chi affitta clandestini, l'estensione a 6 mesi del limite di permanenza nei centri di identificazione, una tassa tra gli 80 e i 200 euro per il permesso di soggiorno. E anche le nozze con gli stranieri diventano più difficili. Tra gli aspetti più controversi del pacchetto sicurezza c'è anche il reintegro delle ronde padane, che scatenano poi una gazzara in aula proprio nella giornata di giovedì. Ce la racconta questo servizio di Elisabetta Fiorito. A Montecitorio si vota il disegno di legge sulla sicurezza e il segretario del Partito Democratico Dario Franceschini lancia dure accuse al governo. La prima sulle ronde padane. Nella storia italiana c'è già stato purtroppo un altro momento in cui si pensò di affidare la sicurezza a persone che giravano per le strade con la camicia dello stesso colore, e noi lì non vogliamo tornare. La seconda sulla norma che non prevede il riconoscimento dei figli per le madri clandestine, e scoppia la rissa. Avete di fatto reso impossibile l'iscrizione all'anagrafe di bambini di genitori. Per cortesia, prego il ministro Maroni, Presidente, di avere un atteggiamento consono all'aula. Il presidente di turno Rosy Bindi richiama all'ordine, il ministro degli interni Roberto Maroni risponde alle accuse in transatlantico, il corridoio che costeggia l'aula di Montecitorio. Un politico serio non può dire in quest'aula delle cose così grossolanamente false come quelle dette da Franceschini. Le può dire in televisione, le può dire nei comizi. Ma in quest'aula un parlamentare non può permettersi di dire falsità. Sul tema dell'immigrazione, che non si può certo esaurire qui, segnalo le parole di giovedì, che non sono né banali né morbide, del Presidente della Repubblica, che denuncia il rischio di una retorica intollerante e xenofoba. Ieri invece c'è stato l'incontro tra il rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati e il ministro dell'Interno Maroni, il responsabile a suo modo dei respingimenti delle navi degli immigrati al largo delle coste italiane. Ebbene, le parole dell'Alto Commissariato sono importanti, perché ha detto, insomma, che la nuova politica inaugurata dal governo italiano si pone in contrasto con i principi della Convenzione di Ginevra del 51, quindi si apre un fronte di polemica sul quale si discuterà a lungo nei prossimi giorni. L'ottavo giorno. Domenica. E adesso tuffiamoci nelle vicende dello sport, che sono sempre numerose. Per esempio Rode 24 sta seguendo passo passo, giorno dopo giorno, il Giro d'Italia, che ci porterà tra qualche settimana poi al vincitore della maglia rosa. Ma questa volta direi che il piatto forte è soprattutto la Formula 1, non in pista peraltro, dove continua a vincere la Brown con l'ennesima doppietta, questa volta domenica scorsa arrivata a Barcellona, ma per le minacce della Ferrari, che addirittura paventa l'ipotesi di una scissione dalla Formula 1, dalla Federazione Internazionale, e di farsi, se vogliamo, un campionato a parte. Sarebbe davvero uno scenario clamoroso per i prossimi anni. Ma prima di parlare in particolare della Formula 1, quindi della notizia sportiva della settimana, andiamo sul calcio, perché il campionato sta per finire, mancano poche giornate, si stanno per assegnare anche tutti i verdetti, compreso quello dello scudetto che ormai è in mano all'Inter. Si pensava che forse già domenica scorsa potesse arrivare lo scudetto, che invece non arriva. C'è questo derby con il Milan, seppure a distanza di sicurezza. Sentiamo allora il commento sulla giornata di domenica scorsa, firmato da Carlo Genta. Intorno all'Inter si andava raccogliendo in modo del tutto ingiustificato una folla di disfattisti, gufi e tifosi sull'orlo di una crisi di nervi. Basta un pareggio a Verona contro una delle squadre più brillanti degli ultimi 3 mesi di campionato per aprire la via al brivido. Se il Milan batte la Juventus allo sbando nel posticipo e poi vince sabato sera a Udine, non si dorme per una notte intera, coi cugini alle porte a -2. E si aspetta domenica il Siena già salvo sull'uscio di San Siro con una FIFA blu addosso. Invece capita poi che il Milan si sgonfia all'improvviso. La Juventus, ed è la più eclatante sorpresa della domenica, giochi una partita di grande applicazione e compattezza, ed ecco che lo spumante nerazzurro torna in frigo, pronto per la festa scudetto nel giorno del Giro d'Italia a Milano. Forse dunque lo scudetto per l'Inter arriverà domani sera, c'è il posticipo in casa con il Siena, ma forse potrebbe già arrivare stasera se il Milan dovesse perdere a Udine. Insomma, è solo questione di tempo, ormai lo scudetto per i nerazzurri è davvero vicino. Intanto si sta giocando un'altra partita a Napoli, di diverso tipo, che riguarda il processo di Calciopoli. Lunedì il PM formalizza le sue richieste di condanna. Sentiamo il servizio del corrispondente Enzo Danna. Pene varianti da 1 a 5 anni per gli 11 imputati del processo di Calciopoli, che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato e la richiesta dei pubblici ministeri della Procura di Napoli, Narducci e Beatrice. La condanna più pesante è stata chiesta per l'ex amministratore delegato della Juventus, Antonio Giraudo, che a giudizio dei magistrati avrebbe partecipato a pieno titolo ad un'associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva. Stessa accusa anche per l'ex presidente dell'AIA Tullio Lanese e per gli ex arbitri Cassarà, Pieri, Gabriele e Baglioni. Altri 5 imputati devono rispondere solo di singoli episodi di frode sportiva. Nella loro requisitoria i PM hanno ricostruito il sistema illecito che avrebbe governato il calcio italiano, condizionando l'esito dei campionati. Giunge così alla stretta finale il primo capitolo di Calciopoli, che potrebbe concludersi entro l'estate. Venerdì prossimo riprenderà invece il processo con rito ordinario, che vede coinvolto tra gli altri Luciano Moggi. Per chiudere con il calcio, ricordo che mercoledì la Lazio ha vinto la Coppa Italia ai rigori contro la Sampdoria all'Olimpico, e nel frattempo, prima di scoprire appunto come finirà il campionato in testa, in coda e nella caldissima zona Champions League, è già nel vivo il calciomercato. Direi che soprattutto due storie sono quelle al centro anche delle cronache dei giornali in questi giorni, quelle che riguardano due allenatori, Ranieri alla Juventus e Ancelotti al Milan. Chissà se resteranno o, come sembra probabile, andranno via entrambi o verranno cacciati. Come annunciato, ora veniamo invece alla Formula 1. La notizia della settimana, come già annunciato, è il rischio scissione, e a guidare la protesta dei team non è un qualunque Davide contro i Golia del mondiale, ma addirittura la scuderia per eccellenza, la più blasonata, la più famosa, la più amata del mondo, cioè la Ferrari, che annuncia le sue mosse martedì. Ci racconta tutto Dario Ricci. Siamo di fronte a regolamenti, a situazioni di Formula 1 che, se non cambiano, ci porteranno forse a prendere delle decisioni molto dolorose di far qualcos'altro, ma lo vedremo. Sceglie la tribuna di Ballarò Luca Cordero di Montezemolo per confermare quello che il CDA di Maranello ha preannunciato sin dal pomeriggio. Il cavallino rampante, sempre presente fin dall'edizione inaugurale del 1950, è pronto a dire addio al mondiale di Formula 1 dal 2010. Se passeranno le norme su budget di spesa e doppio regolamento tecnico volute dal presidente della Federauto, Max Mosley. La rossa dice no al tetto di 45 milioni di euro per le spese e, soprattutto, no alle forti agevolazioni tecniche garantite ai team che rispetterebbero quel budget. In caso contrario, meglio l'addio, magari per le corse negli Stati Uniti o per un nuovo mondiale con tutti i team pronti alla scissione. Ma Maranello fa anche capire che esistono ancora margini per trattare, e il patron del Circus, Eccleston, è chiaro: l'accordo si farà. Insomma, ieri hanno ruggito i motori, da oggi nel paddock sono al lavoro le diplomazie. Lo scontro tra le scuderie e la federazione è soltanto all'inizio, non è detto che proseguirà soltanto a colpi di sciabola, forse ci sarà anche spazio per la diplomazia e per una ricucitura dello strappo. Nel frattempo però molti team si sono già schierati con la rossa, con Marrello, in particolare la Renault, e intanto Roma lavora per avere un suo gran premio di Formula 1. Ma qui poi si scopre da questo servizio che riascolteremo di Paola Cavadi, la questione non è soltanto sportiva, ma è molto molto politica. Festival del cinema, mondiali di nuoto, poi lo status di Roma capitale e Fiumicino hub strategico di Alitalia. Una lista di primati, quelli di Roma, che fa arrossire di rabbia il nord. E come se non bastasse a irritare sindaci e deputati leghisti, adesso ci si mette pure la Formula 1. Roma, Formula Futuro. 2000 anni, in pole position. La candidatura della capitale per i mondiali del 2012 non è ancora ufficiale, le trattative vanno avanti, ma intanto ieri in Campidoglio è stato presentato il progetto di fattibilità. Con buona pace del deputato del Carroccio Salvini, che di fronte alla sola ipotesi di un gran premio capitolino che sottragga prestigio al circuito di Monza, aveva tuonato che gli crolli il Colosseo in testa. Intanto però a Roma ci credono davvero, a dimostrarlo le tavole del progetto, con tanto di stime sulle ricadute economiche e turistiche per la città. Il circuito, lungo poco più di 4,5 km, si snoderà in un contesto urbano futuristico, il quartiere dell'Eur, un circuito medio-veloce con ben 3 punti di sorpasso, non una pista per go-kart, assicurano i curatori. Roma però deve vedersela con capitali di rango come Parigi, Londra, Pechino e Mosca, e la partita non sarà facile. Il sindaco Alemanno si è detto fiducioso, in attesa che torni il sereno dopo il minacciato ritiro delle rosse di Maranello dal prossimo mondiale. Io non voglio neanche pensare all'idea di un gran premio a Roma senza la Ferrari. Le questioni che saranno poste sono questioni molto serie, saranno risolte quando il Gran Premio arriverà a Roma. Non possiamo fare il Gran Premio a Roma senza la rossa. Lunedì inizia la settimana economica e inizia davvero male, perché in poche ore rimbalzano dati negativi sulla produzione industriale italiana e sulle entrate del nostro fisco, che poi queste notizie negative faranno poi pandan, diciamo così, con i dati sul PIL che arriveranno a fine settimana. Sono arrivati ieri e c'è davvero da aver paura. Cominciamo però con i servizi di Anna Marino e Massimo Di Scienza. Non si arresta la discesa della produzione industriale, che dopo 11 mesi registra ancora un segno meno, ma per aprile si aprono spiragli. L'indice della produzione segna marzo, secondo l'Istat, una flessione congiunturale, cioè rispetto al mese precedente del 4,6%. La variazione tendenziale rispetto invece allo stesso mese dello scorso anno, secondo i dati corretti in base al calendario dei giorni lavorativi, registra un calo di quasi il 24%. Si tratta di un ribasso di portata storica, secondo l'Istituto di Statistica, che in particolare riguarda la produzione di autoveicoli con una flessione annua del 35%. Una sola variazione annua positiva, quella nel comparto dei farmaci, con un aumento del 5,3%. Ma secondo l'ISAE, Istituto di Studi e Analisi Economica, ad aprile tornerebbe, per la prima volta dopo 11 mesi, a manifestarsi un rialzo produttivo. E anche il Centro Studi di Confindustria prevede, per lo stesso mese, un rallentamento della flessione, che si attesterà a meno 23%. Rispetto all'anno scorso. Nel primo trimestre dell'anno le entrate del fisco hanno fatto registrare un netto calo. Secondo il bollettino del Ministero dell'Economia, i dati sono lo specchio del contesto economico internazionale. In termini assoluti, tra gennaio e marzo, il fisco ha incassato poco meno di 84 miliardi di euro, 4 circa in meno rispetto allo stesso periodo del 2008, al netto delle una tantum. In percentuale si tratta di un calo del 4,6%. Sensibile la diminuzione del gettito derivante dall'IRES, l'imposta che grava sulle imprese, con un meno 12%. E dall'IVA, che ha incassato 2,4 miliardi di euro in meno rispetto al 2008, ossia il 10,6%. Cala anche la lotta all'evasione. Secondo il bollettino di Via 20 Settembre, il gettito derivante dai controlli è stato inferiore dell'1,3% rispetto a 12 mesi fa. In tempo di crisi segna il passo anche una delle passioni degli italiani, il lotto e il gratta e vinci, che rendono allo Stato 110 milioni in meno dello scorso anno. In controtendenza regge il gioco alle slot machine. Poi, e non certo a rasserenare gli animi e i mercati, arriva la Banca Centrale Europea, perché giovedì snocciola altre previsioni preoccupate e preoccupanti sull'economia dell'euro. Eccole riassunte nel servizio di Alessio Maurizio. Economia in profonda recessione e stime sul 2009 peggiori delle attese. È questo il quadro non proprio incoraggiante tracciato dalla Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino di maggio. Secondo i banchieri centrali, l'economia mondiale, compresa quella dell'area euro, è ancora in forte rallentamento e una graduale ripresa si affaccerà solo nel 2010. Per questo, viste le cattive indicazioni dei primi 3 mesi dell'anno, le stime per il 2010 2009 di Eurolandia si abbassano ulteriormente, prevedendo una contrazione del PIL del 3,4%, quasi il 2% in più delle ultime valutazioni. La ripresa, si fa per dire, si segnala solo dello 0,2% nel 2010. La BCE segnala anche la perdita dei posti di lavoro, con la disoccupazione che salirà quest'anno al 9,3% per superare l'anno prossimo la soglia del 10% in Europa. E infine c'è la mazzata sul PIL italiano. I numeri parlano chiaro, ce li riassume Valeria De Rosa nel GR delle 13 di ieri. La prima variazione negativa, quella del secondo trimestre 2008, aveva sorpreso un po'. La seconda confermava il trend. Con la terza la speranza si era spenta del tutto. La quarta, quella di oggi, lascia un po' a bocca aperta. Si sapeva che il primo trimestre dell'anno sarebbe stato il peggiore, ma il calo, che sfiora il 6%, somiglia molto a un crollo. Per la precisione, la flessione del 5,9% su base annua e del 2,4% sul trimestre precedente. Il dato è il peggiore dagli anni 80, da quando inizia la nuova serie storica dell'Istat, con numeri confrontabili. Le stime indicano che la diminuzione di valore aggiunto è stata registrata in tutti i settori. L'Italia non è comunque sola, il calo del PIL accomuna un po' tutta l'Europa. In Germania la flessione è stata la maggiore dal 70, la Francia è ufficialmente entrata in recessione con il secondo trimestre consecutivo in rosso. In generale la crescita dei paesi della zona dell'euro, così come quella dell'Unione Europea, ha fatto registrare un calo del 2,5% rispetto al trimestre precedente. Il livello dei prezzi ad aprile resta stabile ovunque, in Europa inchiodata al livello più basso di sempre, un più 0,6%. In Italia l'inflazione è stata rivista al ribasso di un decimo, più 1,2% annuo, con una crescita sul mese precedente dello 0,2%. Ieri alla fine del Consiglio dei Ministri Berlusconi ha voluto, e non poteva naturalmente fare diversamente, commentare i dati dell'Istat sul PIL. Ha espresso comunque un ottimismo, come fa sempre in questi casi, ha parlato di segni di ripresa che presto si faranno sentire. Subito è arrivata la stoccata di D'Alema, che ha punzecchiato il Premier e ha detto: mentre Palazzo Chigi si trastulla, l'Italia è peggio della media europea. L'ottavo giorno. Martedì. È più o meno a metà del suo lungo svolgimento la visita del Papa in Medio Oriente. Cominciata, lo ricorderete, la scorsa settimana, che poi si è conclusa ieri, partita dalla Giordania e poi concentratasi, dispiegatasi in tante tappe, in tanti incontri e in tantissimi discorsi e parole importanti in Israele e nei territori palestinesi. Uno dei momenti più attesi e discussi, direi prima ma soprattutto dopo, è la visita che il Pontefice fa al memoriale della Shoah. Lunedì. Sentiamo la cronaca dell'inviato Carlo Marroni. I nomi delle vittime della Shoah non devono mai perire e le loro sofferenze non devono essere mai negate, sminuite o dimenticate. Con queste parole chiare, pronunciate da Benedetto XVI allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto, dove ha reso omaggio alla memoria di 6 milioni di ebrei morti nei lager, è entrata nel vivo la visita del Papa in Israele. Benedetto XVI ha acceso una fiamma, deposto una corona di fiori e incontrato anche alcuni sopravvissuti dell'Olocausto e ha lanciato l'allarme sull'antisemitismo che, sempre più nel tempo, rialza la sua testa ripugnante, ha detto. E poi un messaggio politico: tra israeliani e palestinesi si arrivi ad una pace giusta che porti alla nascita di due patrie entro confini sicuri. Oggi la visita del Papa al Muro del Pianto, dove già si recò Papa Wojtyla nel 2006, ma anche alla spianata delle moschee e successivamente l'incontro con il Gran Rabbinato di Gerusalemme, che criticò la Chiesa per le dichiarazioni del vescovo tradizionalista che aveva negato l'esistenza delle camere a gas. Impossibile naturalmente riassumere in questa sede tutte le tappe del lungo viaggio di Benedetto XVI in Terra Santa. Nel frattempo Papa Ratzinger va a Betlemme, a Nazareth, scaglia parole durissime contro il muro, incontra Netanyahu per 15 minuti e prima aveva incontrato per molto più tempo e con molto più calore, bisogna ammetterlo, Abu Mazen. Ma credo che sia interessante risentire il punto di vista degli arabi e degli israeliani con le analisi ravvicinate nel GR delle 7 di ieri, prima di Adib Fatali e poi da Gerusalemme di Sergio Minerbi. Dire che il viaggio del Papa in Terra Santa abbia suscitato grandi entusiasmi tra i musulmani è forse eccessivo, ma il repentino cambio d'atteggiamento dei media arabi subito dopo le parole di Ratzinger a favore di uno Stato palestinese è stato forse il segnale che qualcosa è cambiato nella percezione degli islamici verso il Papa tedesco. Dopo averlo ignorato nei primi giorni, i principali quotidiani sono usciti ieri con titoli cubitali su Benedetto XVI per avere definito tragico il muro di separazione e soprattutto per avere chiesto la fine dell'embargo a Gaza. Una nota stonata l'ha riservata a Safir, giornale filo siriano del Libano, che ha giudicato poco incisivo il messaggio del Papa, che sarebbe venuto in Terra Santa solo perché preoccupato dalla scarsa crescita dei proseliti al cattolicesimo rispetto a quelli delle due fedi monoteistiche rivali. Papa Benedetto XVI sta per finire la sua visita nello Stato di Israele, un viaggio faticoso ma anche complicato per la tensione sempre presente fra le parti in lizza. Nel primo giorno della visita il Papa tenne a Yad Vashem un discorso basato sulla Bibbia, suscitando il malcontento di alcuni. Forse si aspettavano una domanda di perdono per la millenaria dottrina della Chiesa contro gli ebrei o delle condoglianze per le vittime della Shoah. A Betlemme egli ha espresso la sua solidarietà ai palestinesi e ha definito il muro di separazione una tragedia, senza tener conto che il muro è stato costruito per metter fine agli attentati terroristici. Il premier Benjamin Netanyahu, che ha incontrato il Papa a Nazareth, si è meravigliato che il pontefice conoscesse le ricerche storiche sull'Inquisizione firmate da suo padre. Il presidente Shimon Peres è convinto che Benedetto XVI abbia levato una voce chiara contro l'antisemitismo. Insomma, ascensione fatta dalla politica estera, gli israeliani hanno gradito molto la visita del Papa, anche se ha bloccato la circolazione a Gerusalemme. Ieri il Papa ha chiuso il suo lungo viaggio in Israele, in Terra Santa, è rientrato in Vaticano dopo aver pregato al Santo Sepolcro e dopo un caloroso saluto con Netanyahu e soprattutto con il presidente israeliano Peres. Ecco le somme che ha tirato di questo lungo viaggio Filippo Di Giacomo, che ha seguito proprio il Papa in Terra Santa. Il pregiudizio di questo viaggio voleva un Papa antipatico con dei trascorsi nazisti, che veniva ricevuto quasi dovesse fare gli esami di riparazione di antisemitismo. In realtà l'antisemitismo Benedetto XVI lo ha dimostrato dai tempi della nostra epate. Questo Papa non è antipatico, non è mai stato nazista e inoltre ha concluso con uno splendido successo diplomatico, un viaggio che ha riportato a casa certamente l'acquisizione che oltre a fare politica con Israele, le potenze occidentali, l'Unione Europea, dovranno, America compresa, dovranno d'ora in avanti fare politica anche con i palestinesi. Questo su un orizzonte di un incontro che avverrà tra qualche giorno con un personaggio, secondo me, che certamente non era indifferente nel chiedere al Papa di fare questa visita. E come si chiama questo personaggio lo sapremo tra qualche giorno, visto che ormai è chiaro a tutti che avere uno Stato palestinese indipendente diventa sempre più urgente anche per interessi strategici dell'America. Mercoledì. Rimaniamo lontano dall'Italia per raccontarvi ora due storie in particolare che hanno al centro altrettante donne, tutte e due coraggiose e private della libertà. In modo diverso, ma in modo altrettanto drammatico, perché si trovano in paesi che non sono poi esattamente un modello di democrazia. Cominciamo dalla vicenda di Roxana Saberi, giornalista metà iraniana, metà di origine americana, che è in carcere in Iran fino a pochi giorni fa. Sentiamo allora nell'ordine il servizio di Farian Sabai e poi la voce di Reza Saberi, che è il padre della giornalista, subito dopo la sua liberazione. L'intervista è firmata da Sergio Nava. Il processo di appello a Roxana Saberi si è concluso in modo rapido. Dagli 8 anni di carcere inflitti in primo grado si è passati a 2 con la condizionale. La giornalista, che ha passaporto iraniano e americano, è libera. A contribuire alla rapida scarcerazione è stata la pressione internazionale, in particolare dell'amministrazione di Barack Obama e della diplomazia svizzera, che da 30 anni media tra Teheran e Washington, senza dimenticare il ruolo dei giapponesi dietro le quinte. La madre di Roxana è originaria del Giappone, un paese che acquista ingenti quantità di energia dall'Iran, e un paio di settimane fa l'ambasciatore iraniano a Tokyo era stato richiamato in fretta e furia a Teheran per discutere di qualcosa di molto importante. Per liberare Roxana gli americani avranno dovuto concedere qualcosa alla leadership iraniana. A noi non è dato sapere, ma non dobbiamo dimenticare il destino di tanti altri privi della cittadinanza americana per i quali non si fa rumore. She's fine, she is feeling good. Yeah, we were together and Roxana sta bene, siamo felici di essere stati riuniti. Probabilmente torneremo negli Stati Uniti. Speravamo in questa sentenza, non eravamo però così ottimisti. Forse ci sono state motivazioni politiche dietro a questa sentenza, ma non posso dire nulla di più. Ora siamo felici per la liberazione di nostra figlia. Stiamo bene, felici di averla riavuta. Cominceremo presto a fare i preparativi per il ritorno in America. We have our daughter back there, back here, at home, and we will try to make preparations for our trip back to the United States. Un'altra donna tristemente tornata sulle prime pagine dei giornali in questi giorni è Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace e soprattutto paladina dei diritti della democrazia nella sua martoriata Birmania. Tra l'altro, se ci avete fatto caso, la Birmania è tornata dopo un anno e mezzo sulle prime pagine dei giornali. Era dei tempi della protesta in piazza dei monaci e del fiocco rosso contro il regime militare, insomma, che non si parlava della Birmania. Ogni tanto ci ricordiamo di quello che succede in un posto così lontano e così dimenticato del mondo. Sentiamo però sulla vicenda tristissima di Aung San Suu Kyi il servizio di Adriana Fracchi, è andato in onda nel GR delle 13 di giovedì. Inizierà il 18 maggio prossimo il processo contro la leader democratica Aung San Suu Kyi. Secondo il suo avvocato, la donna è accusata di aver violato le regole agli arresti domiciliari cui è sottoposta dal 2003. Oggi è stata portata nel carcere di Insein, dove ha sede un tribunale. Il fatto a cui fa riferimento l'incriminazione, che vede coinvolti anche due collaboratori della leader democratica, riguarda la visita non autorizzata di un cittadino americano avvenuta una decina di giorni fa nella casa di San Suu Kyi a Rangoon. Lo statunitense aveva attraversato a nuoto il lago che costeggia la casa della donna e si era introdotto furtivamente rimanendovi nascosto per un paio di giorni. Per questo è stato arrestato dalle autorità birmane ed ora sarà processato davanti a un tribunale del regime di Myanmar per violazione delle regole sull'immigrazione e della legge sulla sicurezza. San Suu Kyi, 63 anni, premio Nobel per la pace, è stata privata della libertà per la maggior parte degli ultimi 19 anni. Il suo ordine di assegnazione alla custodia domiciliare scade il 27 maggio prossimo. Restiamo ancora nella tormentata Asia, esattamente al confine tra Pakistan e Afghanistan, dove da giorni è in corso una durissima battaglia, un durissimo scontro che sta lasciando moltissimi morti sul campo tra l'esercito pakistano da una parte e i talebani dall'altra. Ogni giorno arrivano notizie di bombe e di morti, questa invece è una scheda curata mercoledì da Cristina Balotelli. L'esercito pakistano annuncia di aver ucciso altri militanti talebani su un nuovo fronte nella valle dello Swat. Notizia a senso unico perché la zona dove continuano i combattimenti è off limits ai giornalisti. During last 24 hours... Una delle fonti ufficiali, il generale Attar Abbas, ha detto che il numero dei talebani uccisi è salito a 751, mentre i militari morti sono 29. Non si sa nulla invece di civili uccisi. Ma i profughi continuano a scappare a migliaia dalla zona dei combattimenti e l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati ha diffuso nuove cifre. Ai nostri microfoni da Islamabad, Arian Rommery. L'agenzia ONU per i rifugiati ha registrato più di 500.000 di profughi. Si tratta di persone che sono state registrate nei campi o comunque presso i nostri punti di registrazione a partire dal 2 maggio. Di queste, circa 72.000 stanno nei campi profughi, ma la maggior parte, oltre 428.000 persone, hanno trovato rifugio presso parenti o amici o presso comunità di accoglienza. È difficile conoscere il numero esatto di rifugiati perché molti non sono stati registrati, molti altri sono in arrivo, a migliaia. Sono scappati molto velocemente e all'improvviso, quindi hanno bisogno di tutto. Un posto per dormire, acqua, cibo e cure mediche. Water and sanitation. Le autorità pakistane dicono che questa offensiva terminerà presto, ma i talebani usano la guerriglia. Un conto è vincere una battaglia contro di loro, un altro è vincere la guerra. Purtroppo il bilancio di morti e profughi legati alla vicenda tra Pakistan e talebani sale di ora in ora. Ieri l'ultimo bollettino emanato dall'ONU che parla addirittura di 1 milione di civili fuggiti dagli scontri tra l'esercito pakistano e i ribelli talebani in meno addirittura di 2 settimane. Quindi siamo di fronte a numeri davvero clamorosi. L'ottavo giorno. Giovedì. Si apre il Salone del Libro di Torino, ormai diventato un appuntamento classico per lettori costanti, occasionali, saltuari, per editori, per addetti ai lavori, per giornalisti. Naturalmente c'è anche Radio 24 che ha una sua postazione in questa settimana e anche nell'inizio della prossima. giorno per giorno manderà in onda proprio delle trasmissioni dal Salone di Torino. C'è anche un'inviata, la nostra Alessandra Tedesco. Questa è la sua cronaca della prima giornata. Di area di crisi qui alla Fiera di Torino nessuno vuol sentirne parlare. E in effetti l'editoria è uno dei pochi settori che ha retto. Boom di vendite a Natale, anche perché il libro è un regalo poco costoso. Gennaio e febbraio stabili, qualche segno di crisi da marzo in poi, ma, fa sapere l'AIE, ossia l'Associazione degli Editori, è fisiologico in un mercato che dipende molto dall'offerta. In altre parole, non si ha sempre a disposizione un Harry Potter o un Codice da Vinci. Ma perché dunque l'editoria sta reggendo? Giovanni Peresson, responsabile dell'ufficio studi dell'AIE. Merito forse di un paradosso tutto italiano, cioè il fatto che il mercato del libro in Italia è fatto sostanzialmente dai forti lettori, cioè da persone che hanno rapporto molto forte, molto consolidato con il prodotto libro, e questa caratteristica, che evidentemente è dal punto di vista sociale, dei consumi culturali, un limite, nei momenti di crisi rappresenta invece un punto di forza. E così il 13% degli acquirenti genera circa il 45% del giro d'affari delle librerie, acquirenti che in genere appartengono a una classe economico-sociale medio-alta e che dunque non risente della crisi. Sono naturalmente tante le suggestioni, le persone che si possono incontrare, gli scrittori con cui si ha la fortuna di parlare in questi giorni a Torino. Alessandra Tedesco, l'inviata di Radio 24, gira la Fiera di Torino praticamente in lungo e in largo. Ecco un'altra sua corrispondenza, andata in onda ieri sera nel GR delle 19. A volte la realtà supera qualsiasi fantasia e così gli scrittori decidono di romanzare su fatti veri. È quello che succede ai giallisti Patrick Fogli e Ugo Barbara, che qui alla Fiera del Libro di Torino presentano romanzi ispirati a due grandi misteri della storia italiana. Il tempo in Francia di Patrick Fogli racconta la storia di un ragazzo convinto che il padre sia morto nella strage di Bologna. Non volevo fare un romanzo per gente che sapeva che cosa è successo il 2 agosto dell'80, volevo fare un romanzo che servisse sia a chi sapeva che cosa era successo, sia a chi magari non se lo ricordava tanto, ma sia a chi non ne ha la più pallida idea e magari proprio leggendo una storia si chiede quanto mi sono inventato io e quanto invece è successo veramente così come io lo racconto nel libro. In Terra Consacrata è invece il romanzo di Ugo Barbara, liberamente ispirato alla storia di Sabrina Minardi, l'ex compagna di un boss della banda della Magliana che l'anno scorso aveva fatto delle rivelazioni sul sequestro di Emanuela Orlandi. I misteri della storia italiana recente sono talmente pieni di suggestioni, di idee, di spunti narrativi che non c'è bisogno di inventarsi niente. In Italia accade già abbastanza roba per inventarsene altra. Venerdì. È giornata di sciopero nel trasporto pubblico, indetta la vertenza dai Cobas per 24 ore un po' in tutta Italia. Ecco lo scenario poche ore prima dell'avvio proprio dello sciopero con Anna Marino. La protesta è stata indetta dal sindacato dei lavoratori Cobas e Cube, sarà svolta in fasce orarie diverse per città garantendo quelle protette. A Roma la sospensione del trasporto pubblico urbano riguarderà la fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 17 e quella dalle 20 fino al termine del servizio. A Milano metro, bus e tram rimarranno fermi tra le 8:45 e le 15 e dalle 18 in poi. Due i cortei previsti in Lombardia alle 9:30, uno a Gallarate e uno con partenza in piazza Cairoli nel capoluogo. I sindacati di base non hanno quindi accolto l'invito fatto l'8 maggio scorso dal ministro dei trasporti Altero Matteoli a differire lo sciopero, ritenendo che le argomentazioni del ministro vanno di gran lunga al di là delle previsioni di legge e prefigurano una vera e propria cancellazione del diritto di sciopero nel settore dei trasporti. Motivazione di fondo: l'inadeguatezza dei rinnovi contrattuali in un momento di crisi. Non è mai facile raccogliere e poi leggere e commentare i dati sugli scioperi. Spesso ci si affida poi alle percezioni personali. Comunque, secondo i sindacati di base, cioè quelli che poi hanno indetto questa avvertenza, i primi risultati sono rilevanti. Infatti, i sindacati di base hanno parlato di uno sciopero a Venezia di una media dell'80% nel trasporto pubblico, a Bologna del 55% e a Roma del 45%. Quindi, dal loro punto di vista, sono sicuramente picchi molto elevati, molto significativi. Dai disagi però di ieri nel trasporto pubblico nelle varie città italiane passiamo ad un altro settore chiave dei trasporti, quello aereo, che poi a sua volta è stato per tanto tempo al centro di scioperi e disagi vari. Dopo settimane di silenzio bisogna notare che è tornata in auge la parola Alitalia e in settimana poi è tornata l'antica disfida tra Roma e Milano. Ci racconta tutto Valeria De Rosa. Traffico in calo negli aeroporti italiani, colpa della crisi. In calo gli scali milanesi, con Malpensa in flessione del 20%. Un po' colpa della crisi, un po' colpa di CAI. Ecco perché a Roma la situazione è diversa. Fiumicino ha portato a casa un progresso del 7%, agguantando quota 35 milioni di passeggeri. Ha pesato la scelta di Alitalia di concentrarsi sull'aeroporto Leonardo da Vinci, decisa a marzo 2008 dalla vecchia compagnia e confermata mercoledì dalla D. Sabelli. Si è consumato l'ultimo atto di un vero e proprio imbroglio, ha detto la presidente del Piemonte Bresso. Lo sapevamo già, ha dichiarato il presidente della Lombardia, ma l'Italia si tolga dalla testa di esercitare il monopolio sulla tratta Milano-Roma, ha aggiunto Formigoni. A tutti ha risposto il ministro delle Infrastrutture Matteoli. Pensare di penalizzare Malpensa è una sciocchezza. Roma ha una vocazione più turistica, Malpensa ha sicuramente una vocazione industriale e imprenditoriale. Nel botta e risposta generale l'unica soddisfatta è Francoforte. Lufthansa Italia, basata su Malpensa, collega 8 destinazioni europee e 3 nazionali con lo scalo varesino. Ci sarà spazio anche per le rotte internazionali. Sicuramente la vicenda di Alitalia non si chiude qui, andrà avanti chissà ancora per quanto e con quante sorprese. Noi invece ci concentriamo adesso sull'ottava notizia della settimana che ci permette di virare verso la Francia e verso Cannes, dove è in corso il festival del cinema forse più bello e più amato del mondo. Tanti film, tanti gli attori, i registi in scena, ma questa invece è la presentazione della kermesse che mercoledì mattina fa Franco D'Assisti. È il festival delle poche star e dei tanti maestri, il sogno di ogni cinefilo. Sarà l'aria di crisi, sarà che i lussuosi alberghi della Croisette a 2000 euro a notte hanno messo in fuga persino i ricchi studios americani. Fatto sta che all'edizione 2009 del Festival di Cannes potrebbe riuscire il miracolo, far parlare la stampa più dei film che delle paillette. Si comincia con Up, il primo film da occhialini 3D della Pixar, e si proseguirà con nomi da storia del cinema, dal vecchio maestro Alain René, 50 anni fa a Cannes con Hiroshima Mon Amour, a Quentin Tarantino che porta il suo Inglourious Basterds, da Ken Loach a Jane Campion, l'annuale dose di scandalo e polemiche poi assicurata da Lars von Trier, genio e sregolatezza, che apre il suo Antichrist con i pluriannunciati 6 minuti di sesso esplicito fra due star del calibro di Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg, e intanto il loro figlioletto muore cadendo dal balcone. 15 secondi senza veli anche per Penelope Cruz, protagonista di Los Abrazos Rotos, il film con cui Pedro Almodóvar cerca la sua prima Palma d'Oro, e l'Italia non è da meno, annunciate scene bollenti anche per Giovanna Mezzogiorno in Vincere di Marco Bellocchio, l'unico film italiano in concorso. Abbiamo finito anche per oggi con l'ottavo giorno, ottavogiorno@radio24.it, la nostra mail a cui potete scriverci. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia e come sempre vi do appuntamento alla settimana prossima alle 10 oppure in replica alle 23 di sabato.